que el Batman, prefiero irme con el Robin. Me hace reír, no se hace lindo, cambia por montones. Desaparece el gatto, la fiesta de los ratones. 87.9, allora cominciamo questa chiacchiera, questo approfondimento sia qui dal campetto che sugli 87.9 FM. E un approfondimento appunto sull'attacco che insomma nell'ultimo periodo è sempre più evidente ai quartieri, ma non solo, insomma. E probabilmente appunto andrebbe anche fatto un ragionamento ampio su quello che sta avvenendo sì nei quartieri, ma non solo, anche nelle carceri, o quello che assistiamo anche nelle piazze. Comunque un come dire, un restringimento, un deterioramento sempre più di quello che insomma delle libertà in favore comunque di un apparato repressivo che sembra ormai essere sempre la più esplicita soluzione che propongono ad ogni problema. E farei però un passo indietro magari, e se avete voglia magari partirei un po' dal che cosa stiamo facendo qui, come nasce questa iniziativa. E insomma, chiacchiere anche ne abbiamo parlato, anche su che cosa è successo nell'ultima settimana in questo quartiere. C'è stato un incontro molto importante che ha visto partecipare diversi soggetti, e appunto soggetti anche molto noti per chi si vive i quartieri, per chi si vive insomma anche la violenza della povertà che producono. Penso ad esempio ad Ater, penso ai politici, insomma ai partiti che si sono presentati, non si sono presentati, mo di questo appunto ce lo racconterai meglio tu. Quindi se hai voglia ti lascerei la parola un po' su questo, su quest'ultima settimana e come si è arrivati a questa iniziativa. Intanto un saluto a tutte e tutti in questo particolare modalità comunicativa, perché un po' vi guardo in faccia, un po' siamo in diretta su Onda Rossa, un po' c'ho la speranza anche che le persone che sono affacciate alle finestre possano ascoltarci e capire anche un po' meglio cosa stiamo combinando. Perché sì, ci piace stare insieme, ci piace sicuramente prenderci cura di quello che abbiamo intorno, dei quartieri dove abitiamo, ma anche delle nostre relazioni, però abbiamo anche tanto da dire. Oggi, quando si parla di campetto occupato, abbiamo scelto insomma di prenderci uno spazio abbandonato da Ater, che ha una immensa responsabilità rispetto alla vita di chi vive nei quartieri popolari, e lasciando intrappolate le persone quando non si prende cura dei condomini, degli ascensori, di gente che non può più uscire di casa perché magari ha qualche difficoltà motoria e rimane intrappolata per mesi perché non c'è una manutenzione, così come tutto quello che abbiamo intorno e appartiene ad Ater è in uno stato di abbandono, che è un po' lo specchio di quello che pensano di noi, cioè siamo gente da tenere ai margini. Poi ci stanno ovviamente dei sentimenti, dei pensieri, prova a rendere migliore il quartiere dove si abita anche per le generazioni dei più giovani e delle più giovani, o comunque desiderare che il quartiere non diventi una caserma, non diventi una gabbia, ma possa essere il punto di partenza per un percorso di vita fatto anche di sogni, desideri, qualcosa che ci porta anche a immaginarci anche fuori nel mondo. E quindi oggi abbiamo preso questo spazio abbandonato dall'Ater e stiamo facendo lavoretti, e stiamo rimettendo in sesto un campo da calcio che mo arriva la bella stagione e sarà sicuramente un luogo dove continueremo a frequentarci, a vederci, magari anche a giocare a calcio. Aggiungo due piccoli aspetti in questa breve introduzione. Uno è che ovviamente abbiamo un pensiero fortissimo rispetto ai nostri compagni e compagne di Giulianova, che del campetto occupato, che sono stati sgomberati, ma comunque hanno scelto di fare la guerra ai signori della politica, ai signori della speculazione, e comunque anche una dedica a loro chiamare questo posto campetto occupato, perché è proprio lo spirito, quello umile, ma la dignità immensa di chi alza la testa e pensa a non arrendersi ogni giorno, quella che ci insegniamo reciprocamente, quindi è una dedica sicuramente anche a loro. Poi, per certo, ci tengo a dire che è un'iniziativa in quartiere a Laurentino che è stata pensata proprio al contrario, nel senso ci stanno i compagni e le compagne del bilancio inoccupato di Fiumicino e stanno facendo un giro nelle realtà della città raccontando la devastazione che sta riguardando il litorale, che progetti ci hanno di morte sul mare, non i compagni ma la controparte, e stanno organizzando un'iniziativa di lotta nel loro territorio, e per non sentirsi isolati a Fiumicino stanno informando la città di Roma. Quindi sono venuti a Laurentino e noi abbiamo detto: regà, famola insieme, però famo che non è una cosa separata il Fiumicino, cioè il Laurentino e quello che succede, ci stanno le tante occupazioni che sono sotto attacco da altri progetti di speculazione, c'è quello che sta avvenendo a Quarticciolo dove stanno trasformando a suon di retate e propaganda un quartiere in una prigione di fatto, e c'è chi si oppone là a questa roba qua, e abbiamo detto che sia un'occasione per d'incontro. Hai nominato diversi aspetti che stava ad esempio, insomma, è partita da, cioè, hai nominato pure il campetto occupato di Giulianova, e su questo riflettevo, su come il momento al quale stiamo assistendo non è solo in realtà un attacco alle realtà autogestite, è proprio un attacco a tutta la società, è quello che appunto si prova a dire un po' in apertura, cioè che comunque assistiamo a un processo di deterioramento, insomma, delle libertà che poi, insomma, lo si vede sotto diversi punti di vista. Sì, da un lato certo può essere l'attacco alle realtà organizzate sui territori, dall'altro lato anche la chiusura degli spazi di agibilità di manifestazioni, di protesta, se si pensa anche, insomma, non faremo un redazionale sul DDL 1660 o quello che è stato fatto anche il decreto delle carceri e quello che avviene, insomma, anche l'attacco alle forme di protesta più pacifiche. Però appunto forse andrebbe contestualizzato, cioè nel senso, secondo me questo spazio e quello di cui andiamo a parlare si inserisce all'interno di un ragionamento appunto più ampio come questo. Lo calerei però più nello specifico, e su questo passerei anche un attimo la parola a Quarticciolo, soprattutto perché in questo caso ad esempio il modello Caivano non è un modello, ad esempio, che attacca solo le realtà organizzate. Come dire, c'è stata un po' la fortuna, un po' la determinazione che questo modello ha coinvolto un quartiere come il Quarticciolo, dove già c'era una realtà organizzata, però in realtà, insomma, negli altri è un attacco anche a tanti altri quartieri dove magari realtà che si organizzano su questi termini, su questi vettori, non ci stanno. Quindi lascerei un po' la parola a te, se ti va, di introdurci un po' a questo, insomma, quello di cui si sta parlando nell'ultimo mese del modello Caivano e dell'attacco che state ricevendo. Ciao a tutte e a tutti, sia a chi ci ascolta qui in live, sì, chi ci ascolta dalla radio. Appunto, io sono la compagna del collettivo di Quarticciolo Ribelle e appunto siamo venuti qui oggi perché abbiamo siamo sentito subito un legame con quello che sta succedendo qui, con la riappropriazione di questo parchetto da parte delle persone che vivono in questo quartiere, perché anche noi da sempre più o meno, ma insomma, viviamo uno stato di abbandono da parte dell'ATER, sia per quanto riguarda le case in cui le persone abitano, sia per quanto riguarda tutti gli spazi che ci stanno attorno, che sono di competenza appunto sia loro, sia a volte anche del comune, del municipio, ma appunto l'abbandono è generale e generalizzato, e sia delle aree verdi, appunto degli spazi in cui sperimentare socialità, sia negli spazi in cui le persone dovrebbero abitare in maniera dignitosa. a tutto questo si aggiunge quella che noi ormai chiamiamo l'epidemia di crack, nel senso che purtroppo è cambiata anche vendita delle sostanze e la modalità di consumarle, e questo ha influito in un quartiere in cui comunque lo spaccio è stato presente o comunque è presente da decenni, insomma non è una cosa dell'altro ieri. E questo ci ha portato negli ultimi mesi, negli ultimi anni, a essere spesso sulle pagine della cronaca con retate, ma anche insomma avvenimenti particolari come si sono visti appunto in queste ultime settimane. Probabilmente anche questa attenzione ha fatto sì che Quarticciolo rientrasse appunto in questo decreto Caivano bis, insieme però appunto, come ricordavano, ad altri quartieri d'Italia che non vedono diciamo la nostra stessa realtà, in cui magari ci sono meno spazi auto-organizzati dalla popolazione per contrastare quello che comunque è l'abbandono cronico dei quartieri popolari. Però appunto, come essendo noi organizzati da molti anni, appena abbiamo avuto notizia di questo decreto e del fatto che sarebbe venuto a toccarci, abbiamo deciso subito di prendere parola anche perché se qualcun altro al nostro posto, perché non volevamo essere raccontati in quello che facciamo, ma volevamo essere noi a dire che cosa siamo, per cosa lottiamo, per cosa ci muoviamo. E cercano di farci passare come quelli che non vogliono un modello Caivano perché non vogliono un cambiamento all'interno del quartiere. Noi invece il cambiamento nel quartiere lo chiediamo da circa un decennio, da quando ci muoviamo al suo interno con le diverse attività che facciamo. In parte lo abbiamo, diciamo, attuato noi in prima persona, mobilitandoci con gli abitanti del quartiere, prima con la palestra popolare, con il comitato di quartiere, con il doposcuola, l'ambulatorio, di recente diciamo inaugurazione, nel senso si muove da parecchio tempo, da subito dopo la pandemia, ma da fine gennaio ha finalmente una sua sede stabile, e con la microstamperia, ma anche progetti come quello del birrificio. Con questo noi abbiamo fatto anche negli anni molte battaglie richiamando le istituzioni competenti, appunto quali l'Atere, il municipio nello specifico, ma insomma non solo loro, alle proprie responsabilità, proprio perché per quanto noi possiamo organizzarci è anche giusto che noi non diciamo tappiamo i buchi delle istituzioni su quello che sarebbero le loro responsabilità. Il fatto che alle persone piove in testa è una loro colpa, il fatto che non ci siano gli ascensori e che le persone anziane o con difficoltà di mobilità, come si diceva anche qui a Laurentino, siano segregate dentro casa, il fatto che non ci siano servizi per le bambine e i bambini e per le persone adolescenti è una responsabilità anche e soprattutto delle istituzioni, a cui noi poniamo un rimedio tramite la nostra auto-organizzazione, ma non possiamo essere solo noi che ci occupiamo di noi stessi. Ma su questo infatti hai voglia di raccontarci un po' come viene percepito dalle persone che vivono il quartiere questa operazione? E come anche la raccontate, insomma, come vi ci rapportate voi su questo? Sì, infatti questa è stata, diciamo, una delle difficoltà che abbiamo incontrato in questo. Le persone hanno visto di buon occhio l'arrivo di fondi in quartiere. Quello che è necessario far capire è in che maniera vogliono essere spesi questi fondi sul nostro quartiere, ma come appunto sugli altri che rientrano in questo decreto, perché questi fondi non verranno sicuramente utilizzati per rimettere in sicurezza le case, verranno utilizzati molto poco per finire tutti quei progetti che sono aperti in quartiere, tutti quegli spazi che sarebbero da rimettere a posto, ma saranno utilizzati così come è stato a Caivano, per costruire cattedrali nel deserto, come il famoso centro sportivo, insomma, che ha fatto il giro di tutti i giornali, proprio perché è inaccessibile alla parte della popolazione più povera di quel comune, e quindi non è chiaro come non sia stato pensato come un servizio per la popolazione, ma come una speculazione di cui qualcuno doveva approfittare, e insomma può essere usufruito veramente da poche persone. Poi appunto quello che noi cerchiamo di far capire alle persone è che, proprio essendo un modello di come si vuole impostare la società tutta, in questo caso appunto i quartieri popolari, sono interventi calati dall'alto, securitari e repressivi. Questo decreto, nella sua formulazione originale appunto del decreto che è stato su Caivano, ha anche una visione molto chiara di quello che viene definito il disagio giovanile. Noi a Quarticciolo tendiamo ad affrontarlo in tutt'altra maniera, cerchiamo di fare aggregazione attraverso lo sport nella palestra popolare e di affrontare la scuola istituzionale, che purtroppo non è molto accogliente per chi viene da realtà marginalizzate, di affrontarla in maniera meno impositiva e come una possibilità per chi abita in questi quartieri di costruirsi un futuro differente. Però appunto puntiamo soprattutto a costruire una socialità diversa fra di noi, appunto ad agire su quelli che sono i problemi del quartiere, non in un'ottica repressiva ma in un'ottica in cui la collettività si mobilita per se stessa. Uno dei nostri slogan appunto è dalla borgata per la borgata, proprio perché non vogliamo che arrivi qualcuno dall'altro a dirci come dobbiamo fare le cose, ci devono dare i soldi e le possibilità di fare quello di cui però noi abbiamo bisogno, e siamo noi che sappiamo di cosa abbiamo bisogno. E su questo appunto, proprio sulla capacità di auto-organizzarsi e organizzarsi insomma anche a resistere agli attacchi che riceviamo, il Laurentino 38 più volte insomma si è mobilitato sia per il proprio quartiere ma non solo. Mi sembra appunto che qui c'è un po' un punto di contatto, cioè sì, fra questo e anche fra questo e fra il modello Caivano, perché il modello Caivano comunque non coinvolge, cioè appunto abbiamo detto coinvolge diversi quartieri in diverse città, una di queste è San Ferdinando di Rosarno, persone che voi avete conosciuto, con cui vi ci siete organizzati, e quindi se c'hai voglia di riportarci un po' com'è questa situazione, l'attacco che stanno ricevendo. Allora, sicuramente qui intorno c'è qualcuna molto più preparata di me sul contesto di Rosarno, il lavoro delle persone immigrate che sono costrette a vivere tra baraccopoli e tendopoli e che lottano da anni nell'invisibilità completa, ma sicuramente il territorio, cioè vedere applicato il Caivano al territorio di San Ferdinando, immediatamente andando a fare una breve ricerca si parla di emergenza immigrati, si parla di questo e ovviamente in un contesto così dove c'è il porto di Gioia Tauro che è la porta sull'Europa, sul traffico di droga, armi e persone anche, così come la deriva securitaria e il controllo pesantissimo che c'è nei confronti delle persone immigrate su quel territorio, vedere applicato il modello Caivano lì fa immaginare un contesto davvero tipo la Libia. Io ho pensato immediatamente alla ZES, la zona economica speciale applicata a San Ferdinando, quindi con tutto quello che significa la detassazione, la possibilità di sfruttare la gente senza sindacati, tutto quello che riguarda anche appalti e via dicendo, che una ZES semplifica ai padroni. Vedere applicato poi un modello carcerario, un modello di controllo poliziesco in quel contesto là e sentir parlare degli immigrati mi ha fatto pensare a quello che succede dall'altra parte del Mediterraneo, in Libia, esattamente lì. Poi c'è da dire qualche passo in più, nel senso forse anche centro sportivo dove nessuna squadra del quartiere, nessuna associazione sportiva del quartiere può avere l'assegnazione di quel campetto o svolgere attività. Ha fatto fare ingresso a iniziative di propaganda come il McDonald's o il premio Strega in un contesto dove c'è una dispersione scolastica pesantissima e dove le scuole vengono chiuse dai NAS per epidemie o per sporcizia che scoppiano in quei contesti. Quindi un decreto che viene fatto proprio utilizzando la repressione nei confronti dei più giovani, dei genitori che dovrebbero essere gli unici responsabili, non tutto quello che c'è intorno, ma i genitori sono gli unici responsabili delle scelte e della vita delle persone più giovani di Caivano. Ecco, e tutto questo risolto col carcere, sicuramente anche questo è un segnale che arriva da Laurentino, cioè se vuoi giocare a calcio non serve di sicuro Don Coluccia che arriva col suo pallone e vuole aprire un campetto, così come quello che è successo a Ostia quando con la capocciata degli Spada al giornalista si è aperta una campagna pesantissima dove Federica Angeli poi è diventata consigliera alle periferie nei tempi di Raggi, e quello che hanno fatto è stato inaugurare una palestra, così come tutta la campagna che fa Cicalone con Scuola de Botte, che sembra che sei una persona migliore se fai box nei quartieri popolari, se sei maschio e fai box, e significa che te sei ripiato da qualsiasi cosa di merda ti porti dentro. Ecco, su sta roba qua un pochino scardinarla, pure dire che vuol dire fare sport insieme, che vuol dire fare sport di combattimento, che vuol dire una partita di pallone, e che vuol dire soprattutto farlo senza chiedere il permesso. Laurentino è uno dei quartieri che ha più campi da calcio, penso, di tutta Roma. Ogni lotto ha il suo campo da calcio, sono per la maggior parte abbandonati o Ater l'ha venduti a dei privati per fare dei campi da paddle per la gente degli uffici o quelli di Cesare Pavese o quelli dell'Eur. Quindi siamo in una situazione in cui, bella, se c'è un vuoto è molto meglio impegnarsi per fare il meglio possibile, vivere il meglio possibile, piuttosto che appunto far fare spazio alla speculazione e alla propaganda di regime e basta. E aggiungo, questa roba qua l'abbiamo detta direttamente ad Ater. Siamo stati all'incontro organizzato dalla gente del quartiere, ci ha detto davvero bene, siamo in una fase in cui la gente del quartiere vuole fare delle cose, le vuole fare insieme, si stanno organizzando per vedere quali sono i problemi e provare a risolverli, certo in una maniera un po' differente dalla nostra, ovvero magari andando a bussare alle porte giuste piuttosto che farlo in autonomia. Per noi va benissimo, cioè per noi è tipo una magia quella che sta succedendo a Laurentino, vedere la direzione di Ater un po' testa bassa venire in quartiere e a dire abbiamo ereditato una brutta situazione, adesso faremo il possibile, il nostro capo l'hanno pure arrestato, adesso vediamo se riusciamo a fare due o tre cose, distribuire dei moduli dove la gente doveva compilarli e dire qual era il suo problema, e poi invece vedere la gente arrabbiata argomentare, analizzare tutto quello che c'era intorno, battegli alla controparte, cioè le cose serie, come si può vivere meglio in questo quartiere con le idee molto chiare, è stato una roba potentissima. E a noi è bastato dire beh, la sentite tutta sta gente che c'ha da dire, dite che vi mancano i soldi, noi al Sesto Ponte non lo vogliamo il progetto di riqualificazione, qualificazione ci volete imporre, non ce ne andremo mai, quindi tutti i soldi che dite di voler destinare a un progetto sopra le nostre teste, mo li rigirate e aiutate la gente del quartiere a vivere meglio. Per noi è stato semplicissimo in questo contesto prendere parola così o organizzare una giornata come quella di oggi. Sì, insomma era il riferimento a quello che è accaduto questa settimana qui in quartiere, appunto dell'incontro che c'è stato, e appunto una fra le cose divertenti era questa roba del modulo, no? Che sono stati presentati dei moduli di cui il titolo era un modulo che pareva tipo Boris, no? Era un modulo in cui che potevi compilare e lì ci inserivi i problemi che avevi. Questo era, sì, insomma, come vengono affrontati i problemi anche dalle istituzioni, come si organizzano. Ma secondo me un altro, insomma, aspetto quantomeno geografico interessante è che prima si nominava anche già il litorale, quindi mi comincerei a spostare sul litorale, è che comunque qui a Laurentino ci troviamo più o meno a metà tra il Quarticciolo e Fiumicino, forse siamo geograficamente siamo un po' più vicini a Quarticciolo, ma in realtà di tempi non so se alle 19 del pomeriggio di un venerdì sera ci metti di più per andare al Quarticciolo o a Fiumicino. Comunque, a parte gli scherzi, insomma, vi abbiamo invitato anche a voi in questa giornata. Ci fa piacere, insomma, che siete qui in questo spazio redazionale. E se vi va di raccontarci anche da voi che partita si sta giocando sul territorio. Ciao a tutti, io sono Gigi del Bilancione Occupato, del collettivo No Porto. Siamo qua oggi in solidarietà con l'Arentino 38, come da anni facciamo, perché per noi è uno spazio vicino, per amicizia, per geografia, come citavi prima. È un attimo venire qui, e tante sono state le iniziative che abbiamo in passato vissuto qui, fatte da questi 34 anni di occupazione, autogestione di un quartiere che secondo noi è proprio quello che ci vuole, risposta al tentativo di far passare nel degrado dei posti, perché quello che succede un po' da noi, la partita che si sta giocando invece sul litorale, è proprio come nelle periferie di Roma, ma anche di tante altre grandi città. Il tentativo da parte delle istituzioni, dei grandi speculatori, dei signori, dei palazzinari di vario genere, è far passare, far diciamo cascare nel degrado, nell'abbandono questi luoghi, compresa Fiumicino, compresa il mare e la costa di Fiumicino. In particolare mi riferisco nell'area del Vecchio Faro, alla foce del fiume di Fiumara Grande, diciamo a ridosso dell'idroscalo di Ostia, a fianco appunto anche a un'altra periferia che è come quella che citava poco prima la compagna, la periferia di Piazza Gasparri, insomma di Ostia. È una periferia come questa. Noi magari a Fiumicino facciamo una battaglia diversa, ma la partita che si sta giocando è la resistenza contro un tentativo di lasciare nell'abbandono, nel degrado, nel vuoto un quartiere, perché anche noi siamo un quartiere di Roma, se vuoi siamo il mare di Roma, e per poi giustificare appunto la depredazione, l'estrattivismo, la speculazione, cioè mi prendo tutto io, te lo riqualifico, usano queste belle parole, la riqualificazione, la ricollocazione, e si caccia via la gente dalle case occupate, si mandano via ecosistemi marini, perché quello che è successo da noi sicuramente magari a qualcuno pure andrà pure via se costruiscono il porto crocieristico, perché chi abita a ridosso della costa e dei bilancioni, se ti accendono una nave da crociera 10 ore al giorno, anzi 24 su 24, perché ancora le banchine elettrificate non l'hanno mai fatte in Italia, che è quello che è una delle cose che vogliono usare questi signori delle crociere per giustificare appunto la creazione di un porto crocieristico a Fiumicino, che è quella che è la nostra battaglia, ma che appunto secondo me è molto vicino a quello che succede in altri quartieri di Roma. Cioè appunto per anni l'hanno abbandonato quello spazio, e anche se la gente si organizza e noi nel 2013 occupiamo una bilancia da Vesca e la facciamo diventare un posto di aggregazione e di lotta, perché insomma era stato il primo presidio No Porto fisico che c'è stato in quell'area, e dopo tanti anni diciamo l'auto-organizzazione e l'autogestione degli spazi, di quello spazio, ha fatto sì che ancora stiamo là, ancora possiamo dire la nostra, stiamo riuscendo a fare rete con il quartiere, con Fiumicino. Da anni appunto è nato un comitato cittadino che si chiama I Tavoli del Porto, che sta sostenendo la vertenza in maniera un po' più legale e burocratica, dunque sta attenta a quello che sta succedendo a livello ministeriale rispetto alla concessione portuale data alla Royal Caribbean, alla valutazione impatto ambientale che è ancora in corso. Una serie di cose sono uscite a mezzo stampa, qualche cosa quest'anno è uscito fuori anche in televisione, siamo diventati pure noi oggetto di interesse di questo circo mediatico che delle periferie fa tanto utilizzo quando gli serve, e poi appunto per prima le abbandona e poi ci fa lo scalpore, la news su Striscia la Notizia, ste merde. Ma in generale diciamo secondo me la partita che si sta giocando è la stessa. Il campetto da gioco è una bellissima idea, noi quando sulla spiaggia cerchiamo di autogestire quello spazio, una delle prime cose è proprio il gioco che utilizziamo, perché noi giocando esprimiamo la nostra creatività, il nostro immaginario. E per esempio noi abbiamo fatto una battaglia per anni quando ancora c'era l'acqua sotto i bilancioni, che ora non c'è più a causa di quella tremenda grande opera che hanno tentato di costruire. Facciamo il gioco delle bilanciadi, c'è una giornata di sport acquatici, perché lo sport e il gioco sono importanti e in quartiere non possono mancare. Perciò solidarietà e rispetto per quello che hanno fatto da tanti anni al Quarticciolo, la palestra popolare, le tantissime attività che hai elencato, che io alcune neanche conoscevo, ma ricordo un paio di 25 aprile passati, insomma, dalle vostre parti. Pensiamo che questa sia la partita da giocare, stare uniti e fare rete, perché i problemi sono gli stessi. Magari noi non abbiamo il problema dell'abitativo, delle case di Ader, perché da noi, diciamo, l'edilizia popolare manca, è assente, e infatti il problema sono gli affitti stracari. A Fiumicino, se vuoi prendere una casa, è un macello, è diventata un po'. Tanti romani ci si sono rifugiati e dunque pure lì si specula sul caro affitti. Ma la battaglia è la stessa, cioè resiste a un grande mostro di cemento, a volte per noi di qua è un mostro dei soldi che comunque vuole far diventare un quartiere quello che gli serve per guadagnare con i bed and breakfast, turistificare anche quartieri che prima magari hanno fatto paura a tanti, e poi farli diventare, appunto, anche grazie a finte pulizie di facciata come è successo a Caivano, che citavi prima, e poi rendere appunto uno spazio inaccessibile. La palestra di Ostia, se non sbaglio quella tolta alla mafia o alla, insomma, quello che era conseguente alla capocciata famosa degli Spada, pare che sia in disuso, mezza abbandonata, tra l'altro. Questo per aggiungere qualche dettaglio in più. No, hai nominato un aspetto che volevo riprendere fra gli altri, che comunque è quello un po' del circo mediatico che viene fatto, perché comunque in realtà è un'arma che va, come dire, a braccetto con la politica e poi con la repressione che ne avviene dopo, che non è per nulla indifferente, e che secondo me, cioè, su questo, come radio, perché comunque anche noi portiamo, anche se nel nostro piccolo, un'altra narrazione, ma in generale collettivamente è una riflessione che insomma dovremmo, cioè, aprire, o comunque insomma continuare a coltivare, perché comunque gli attacchi mediatici di stigmatizzazione, di criminalizzazione, che avvengono appunto alle volte nei quartieri, tante volte nei quartieri qua, tutte queste esperienze lo raccontano bene. Basta aprire un giornale o anche ormai insomma i social network, da Instagram ormai si vede anche mediante questi social l'attacco che ricevono le periferie, ma lo stesso ad esempio avviene anche sulla narrazione, che ne so, delle carceri, come tutti i detenuti sono i nemici, e il carcere è ciò che divide la società dal bene e il male, ad esempio, oppure ad esempio anche quando raccontano le persone, i giovani che protestano, che vengono dipinti, no, a volte come black bloc, a volte in maniera stigmatizzante come anarchici, come se fosse un insulto, eccetera eccetera. Comunque sono questi qua, poi sono come dire, una volta che viene presentata questo tipo di narrazione, poi l'attacco politico che ne viene dopo è la diretta conseguenza. Quindi in questo bisogna stare, secondo me, bisogna coltivare una propria narrazione, denunciare quella della controparte dei giornali quando la fanno, insomma. Io su questo mi prenderei un attimo una pausa, farei intanto un appello anche a chi ci sta ascoltando qui di fronte, qui in presenza, che se volete venire qui a prendere parola, se fate parte di altri quartieri o insomma anche a raccontare la propria esperienza sui temi che sono stati trattati, c'è spazio, il microfono è aperto, e quindi io mi prenderei una pausa e poi tornerei di nuovo qui in voce. Parra pa parra pa parra clacky boom, parra pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Morro do Dendê é ruim de invadir, nós com os alemão vamos se divertir, porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a BOP treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus, mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ! Vamos lá! Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Para pa pa pa pa pa. Morro do Dendê é ruim. O que é do Dendê? Vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a pop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu tô maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão. Tem mais um de pistola e outro com 2 oitão. Um vai de ouro na frente, escotando o camburão. Tem mais 2 na retaguarda, mas tão de croque na mão. Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois. Lá vem 2 irmãozinhos de 762. Dando tiro pro alto, só pra fazer teste. De ir na Indratec, pistou o de enxerte. É que eles são bandido ruim e ninguém trabalha. De AK-47, na outra mão a metralha. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. Quem é aqueles cara de M16? A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta. A entrada da favela já tem ponto 50. E se tu toma um pá, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30. Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã. Acabo com safado, dou-lhe um tiro de pazão. Porque esses alemão são tudo safado. Vem de garrucha velha, dá 2 tiros e sai voado. E se não for de revólver, eu quebro na porrada. E finalizo o rap detonando de granada. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Valeu! Papara papara papara caque bum. Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão. Vem mais um de pistola e outro com 2 oitão. Um de ouro na frente, escotando o camburão. Tem mais 2 na retaguarda, mas tão de croque na mão. Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois. Lá vem 2 irmãozinhos de 762. Dando tiro pro alto, só pra fazer teste. De ir na Indratec, pistou o de enxerte. A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta. Nas entradas da favela já tem ponto 50. E se tu tomar um pá, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. Quem é aqueles cara de M16? Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã. Acabo com safado, dou-lhe um tiro de pazão. Porque esses alemão são tudo safado. Vem de garrucha velha, dá 2 tiros e sai voado. E se não for de revólver, eu quebro na porrada. E finalizo o rap detonando de granada. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa. 87.9 da Laurentino 38, siamo in diretta. Siamo in diretta da qui e riprendiamo allora la discussione, i ragionamenti che stavamo facendo. Stavamo facendo, insomma, abbiamo chiuso con le ultime parole parlando un po' del circo mediatico, quello che il compagno prima aveva definito bene il circo mediatico, che viene fatto in particolare in quel caso su Fiumicino, però è qualcosa al quale assistiamo spesso, che sia, insomma, quello che abbiamo nominato prima, che sia per le carceri, che sia per chi lotta, che sia appunto per i quartieri. Quarticciolo su questo, insomma, ultimamente sta facendo scuola e segue proprio il modello da questo punto di vista, lo dico anche, insomma, per la rassegna che facciamo, e ultimamente, insomma, sulla cronaca di Roma ogni volta c'è un articolo nuovo, soprattutto ultimamente con questa cosa del modello Caivano. Sì, diciamo, quello che accomuna noi, Laurentino, Fiumicino, ma anche tutti gli altri quartieri, tutte le altre città con cui abbiamo avuto modo di dialogare sia in questi ultimi mesi sia in generale negli anni, è proprio questo, no? Di come si diceva, abbandonare i territori completamente a se stessi, senza nessuna manutenzione delle case, senza nessuna cura degli spazi collettivi, degli spazi verdi, e lasciare, diciamo, a quello che loro piace tanto chiamare degrado, arrivare poi con il circo mediatico e dire allora ah, lo vedete che è un posto abbandonato, e nessuno però si chiede mai abbandonato da chi. Sono gli stessi che ci abbandonano a poi accusarci di essere una terra di nessuno in cui non ci sono regole, e quindi devono arrivare loro dall'alto con la mano forte dello Stato a riportare l'ordine. Non riportano mai però la dignità alle persone che in quei territori ci abitano, non parlano mai appunto di rimettere a posto quello che c'è, parlano solo di costruire nuovi palazzoni da zero, nuove palestre scintillanti, nuove sedi dell'università come è stato fatto a Caivano, e non parlano mai invece appunto di ricostruire quello che c'è già, quello che appunto a volte le persone, come nei casi di cui parliamo qui, si rimettono a posto da sole, gli ridanno vita da sole, e lo usano sempre tutto questo come scusa per arrivare e fare terra bruciata di appunto quello che invece le persone già fanno in autonomia. Una delle prime dei primi pericoli che abbiamo intravisto come attivisti e attivisti a Quarticciolo è anche la volontà, per esempio, di sgomberare l'ex questura, che è un palazzo occupato dal 98 nel centro geografico e politico del quartiere, perché si trova sulla piazza poi più grande del quartiere, il resto sono diciamo piazze che si creano per la conformazione dei lotti, proprio lo spazio centrale del quartiere, che appunto, come dice il nome, era prima il commissariato, abbandonato da decenni e occupato dai movimenti di lotta per la casa appunto nel 98. E per noi lo sgombero di quel palazzo non vuol dire poi soltanto cacciare di casa le persone che ci abitano, vuol dire anche sgomberare il dopo scuola che ad oggi è attivo da 7 anni e che è diciamo l'unica cosa che si muove in quartiere contro l'abbandono scolastico, uno dei tassi di abbandono scolastico più alti della capitale. Appunto si parla tanto di giovani, e però poi l'unica alternativa che si vede con questo decreto è la repressione. Adesso sicuramente c'è chi magari ne sa più di me, ne può parlare meglio di me, però il decreto Caivano ha avuto come effetto diretto quello di riempire anche le carceri minorili, proprio perché si sono inasprite le pene, abbassate le età per alcuni reati, hanno deciso di appunto colpire solo in questa maniera, senza però nessuna volontà su nessun fronte di dare delle alternative di vita decenti alle persone. E su questo appunto il carcere, la repressione in generale, sono viste come unica alternativa possibile, però appunto lascerei parlarne chi ne può sicuramente parlare meglio di me. Sì, anche perché da un lato quello a cui assistiamo è insomma una penalizzazione della società, e quindi il decreto da Caivano in questo ha riempito le carceri minorili, dall'altro lato poi questi quartieri sono anche un ponte tra il carcere e le periferie. Molto, molto spesso la povertà è l'anticamera della galera, questo va detto chiaramente, e in un'ottica in cui la guerra contro le persone escluse e sfruttate ha raggiunto ormai un'evidenza abbastanza brutale, in cui non si parla più di welfare, non si parla più dei servizi, dove più o meno gli interventi che vengono fatti sono repressivi, sono di espulsione o sono interventi di propaganda, economici di propaganda, per portare l'acqua al mulino della famiglia eteronormata, diciamo tutto quello che riguarda i benefit. L'abbiamo visto qual è il dibattito: devi essere sposato, cioè devi avere un certo numero di figli, ed è sicuro sono interventi che vanno ad accontentare delle lobby di potere, non delle fette della popolazione. In questo contesto qua, non solo il decreto Caivano ha riempito i carceri minorili, ma ha anche spedito nelle carceri per cosiddette persone adulte, le persone che hanno appena compiuto 18 anni, creando in un contesto di sovraffollamento tremendo, che poi qualcuno dice bene, non è sovraffollamento ma è l'impossibilità, è proprio il carcere nella sua natura, è proprio l'impossibilità di uscire da lì, cioè che non c'è nessuna politica che costruisca una possibilità per un detenuto, di una detenuta, di uscire dalla galera. E quindi anche il contesto del minorile, che era sempre stato il fiore all'occhiello dell'Italia, il fatto di creare altre possibilità fuori dal carcere per la gente piccola che doveva essere istradata a una vita migliore, adesso cade il velo, cade la maschera ed è semplicemente tutto più evidente, tutto più violento, tutto più chiaro, però anche molto nitido. Ecco, in questo contesto qua, come dire, le proteste di quest'estate dentro le galere ci raccontano i nostri quartieri, ci raccontano la vita che vogliono farci fare, ci raccontano che cosa sono disposti a farci. In questo paese sono 4 anni che si protesta nelle galere in maniera accesa, collettiva, e sicuramente quello che è successo quest'estate, con tantissime morti ma anche tantissime proteste, è tipo il segnale di chi è compresso dentro le galere, prova a trovare delle boccate d'ossigeno proprio nelle proteste collettive, negli scioperi e in qualsiasi forma per non morire schiacciato nel carcere, ecco. Sì, poi lo stesso anche sta avvenendo dentro i CPR anche, quindi sono proteste alle quali abbiamo... Sì, quando... Ecco, oggi parliamo di modello Caivano, Quarticciolo, metà delle persone recluse nel CPR di Bari sono di Quarticciolo, di fatto, perché sono stati presi nei rastrellamenti di questi giorni a Quarticciolo. Ieri c'è stato un presidio fuori dalle mura del CPR di Bari e ieri sera c'è stata una rivolta. È tutto estremamente collegato, è tutto estremamente sotto gli occhi nostri, sotto l'uscio di casa, no? Appunto, alla luce insomma di tutto questo quadro e di tutto e anche di questo attacco piuttosto violento che si sta ricevendo, quello che insomma l'ultima parte di questo redazionale, di questo approfondimento e di questa discussione un po' tipo appunto che cosa possiamo fare e come vi state organizzando per cercare di resistere a questo momento. Sì, partirei dal Quarticciolo, anche il bilancione ha una progettualità e degli appuntamenti, quindi poi magari insomma se vogliamo fare anche un giro di confronto su come ci stiamo effettivamente organizzando nei territori per resistere a questi momenti. E allora, appunto, noi per fortuna diciamo non eravamo fermi nemmeno prima dell'arrivo disgraziato di questo decreto, e quindi abbiamo solo fondamentalmente incentivato quello che facevamo già prima. In questi 2 mesi abbiamo cercato di chiamare a raccolta tutte quelle realtà, e ce ne sono delle più disparate, che ci hanno sostenuto in questi anni nei progetti che abbiamo fatto, dalle realtà che fanno parte del quartiere ad altre realtà cittadine, sia realtà sociali sia associazioni di diverso tipo. Penso per esempio al fatto che noi comunque dal 2022 che abbiamo il piano di quartiere, che appunto segnala quali sono gli interventi che andrebbero fatti nel nostro quartiere. Appunto non ci siamo mossi sulla chiamata repressiva del governo, ma abbiamo semplicemente puntato a dare più visibilità a quello che abbiamo fatto fino adesso e a quello che ancora vogliamo fare, a quelle che sono le nostre intenzioni per il futuro, insomma, perché noi un'idea di quartiere diverso, di città diversa ce l'abbiamo già, la portiamo già avanti da tanto tempo. Quindi quello che si è trattato di fare in questi, diciamo, 2 mesi è stato proprio questo, appunto, far vedere qual è la nostra idea, su quali basi si muove e quindi, diciamo, mostrarla al di fuori a chi magari ci conosce di meno. Per questa settimana, diciamo che è l'ultima prima di quello che dovrebbe essere la conclusione di questo decreto, in cui dovrebbe essere assegnato il subcommissario e dovrebbero essere indicati gli interventi da fare, perché appunto finora poi ne hanno parlato in maniera molto vaga, mentre noi appunto un'idea chiara ce l'abbiamo e ce l'abbiamo da tempo. Loro sembra che abbiano tutta questa voglia di mettere mano sul quarticciolo senza però avere bene idea di quale sia il punto di partenza. Una delle cose che abbiamo cercato di fare è stata anche appunto segnalare in maniera chiara quali sono le cose su cui, se proprio hanno voglia di spendere dei soldi, dovrebbero spenderli. E questa settimana appunto è l'ultima prima di quello che dovrebbe essere l'inizio e la fine di questa vicenda, e abbiamo 3 appuntamenti molto importanti. Il primo è questo giovedì, che ci sarà il fantastico e coloratissimo Carnevale di quartiere che organizziamo con le scuole di quartiere, che appunto, faccio questa piccola parentesi, sono state dimensionate proprio da questo governo, come è successo comunque in altri quartieri, soprattutto periferici, come al solito, però appunto dicono di voler investire sui giovani e poi la prima cosa che fanno è dimensionare le scuole, trasferire i servizi, accorpare 10 istituti comprensivi differenti sotto una sola dirigenza, e quindi anche alla luce delle proteste che abbiamo animato anche in questi anni con le maestre, con le famiglie che sono in queste scuole, faremo un carnevale di quartiere che parte dalla scuola Pirotta questo giovedì e poi si snoderà con una sfilata per le vie del quartiere. Il giorno dopo invece alla casa di quartiere alle 17:30 ci sarà un incontro in cui parteciperanno tutte gli altri quartieri che sono stati toccati da questo decreto, quindi Palermo, Catania, San Ferdinando, Foggia, Rozzano e alla prova Scampia. La memoria. Esatto. Verranno appunto da questi quartieri che sono stati toccati come noi da questo modello, alcuni ci hanno contattato loro proprio perché hanno visto che noi ci stavamo muovendo e a noi fa piacere anche aver fatto vedere che qualcosa si può fare, che ci si può auto-organizzare contro questa imposizione dall'alto, contro questa visione che vogliono imporre dei nostri territori. Ma ci saranno anche altre realtà da tutta Italia giustamente vedono come noi la possibilità che questo modello continui a imporsi anche nei prossimi anni, proprio perché, come dicevamo all'inizio di questo approfondimento, sembra che si voglia porre un'idea di società di un certo tipo. Il timore è anche che non si fermeranno qui, e quindi abbiamo chiamato a raccolta anche altre realtà che vogliono organizzarsi già da ora affinché questo non accada in futuro anche a loro. Mentre il 1° marzo l'appuntamento a cui chiamiamo tutte e tutti a partecipare è un corteo popolare che si snoderà tra appunto le vie del Quarticciolo. Partiremo alle 3 di pomeriggio con le attività delle palestre popolari e dei doposcuola a noi vicini, con cui ci siamo mobilitati in questi anni, e proporremo appunto delle attività in piazza per poi alle 5 partire con il corteo. Certo, comunque dicevi anche bene, cioè, come mi verrebbe a dire, da qualche parte bisogna fermarli, quindi su questo insomma è importante. Allora, no, io passerei la parola in realtà al bilancione, esatto, perché a proposito del fine settimana e del come anche ci si organizza a questi attacchi, ci sono degli appuntamenti, avete anche voi degli appuntamenti? Sì, allora intanto sì, noi siamo qua, anche come ha detto prima la compagna di Laurentino 38, proprio perché ci stiamo facendo un giro da un po' di date su Roma per fare rete in vista appunto di un'eventuale possibile mobilitazione. Questo sta succedendo intanto con una mobilitazione lanciata per fine marzo rispetto appunto è una mobilitazione no porto che si muoverà in bici attraverso Isola Sacra, che è questa zona di Fiumicino dove è attraversata da due ponti, due fiumi, dove è invivibile la vita, dunque anche a livello anche automobilistico è un problema, e la viabilità è un altro dei nodi critici di questo porto, che dovrebbe appunto poi immettere ancora più traffico sulle strade, un traffico destinato poi a muovere questi crocieristi fantomatici, 5.000 al giorno, una cosa del genere, e per noi è assurdo anche questo. Dunque la biciclettata anche come forma di risposta a una mobilità diversa all'interno del nostro territorio, le abbiamo fatte in passato, è il 23 marzo questa data, è una mobilitazione che avverrà da parte dal comune di Fiumicino e attraversa verso sud fino ad arrivare al faro, al vecchio faro, per poi finire ai Bilancioni, crediamo appunto poi con la locandina e l'evento che uscirà con anche un seguito festoso comunque di ristoro dopo questa manifestazione al Bilancione. E però prima facciamo un'assemblea cittadina, che è la settimana prossima, il primo marzo, un'assemblea pubblica dove faremo chiarezza e aggiorniamo i cittadini di Fiumicino sulla vertenza in atto a livello proprio di quello che sta succedendo con i passaggi tra valutazione e impatto ambientale, dunque il Ministero della Cultura che ancora si deve esprimere e sta rallentando molto questa decisione, che da una parte a noi ci va bene perché ci lascia tempo e spazio per organizzarci, ma che lascia anche incertezze, dubbi. Tante persone si chiedono: ma sto porto lo fanno, non lo fanno? Tutte le domande sono un po' riferite a fare chiarezza, e noi vogliamo farla. Sono mesi che non facciamo un'assemblea pubblica e comunque non aggiorniamo sul stato delle cose. Lo ha fatto invece quel circo mediatico di cui parlavamo prima, attraverso puntate su inchieste televisive, hanno fatto uscire articoli a mezzo stampa. E questo insomma è quello che faremo il primo di marzo, per poi sperare, diciamo, chiuderà all'una la nostra assemblea per poi venire a Quarticciolo e unirsi al corteo delle periferie che insomma è stato raccontato prima. Questo succede il primo marzo a Fiumicino, la mattina alla Liburna, al Parco della Liburna. Poi magari queste cose, se ci seguite, usciranno nei dettagli. Un'altra cosa che volevo dire: oltre al gioco, oggi si è anche fatto questo graffito, si è risistemata questa zona che secondo me, cioè io venendoci giorni prima a guardare com'era, oggi lasceremo uno spazio sicuramente più bello, più colorato, e secondo me questo è stata veramente la bella cosa della giornata di oggi. Volevo ringraziare chiunque, chi si è messo a cucinare, chi si è messo a dipingere, chi ha pulito l'erba, chi ha permesso insomma di stare qui in tranquillità e con gioia, di stare nel quartiere per viverlo, per esistere e resistere. Beh sì, quella di oggi è stata sicuramente insomma una sperimentazione di un altro modo insomma di stare insieme, ma soprattutto anche come dire, l'esperienza che certe cose si possono fare, cioè si può resistere anche insieme. Io concluderei, se c'è voglia, sia su insomma appunto che progettualità ci si può dare, ma anche se c'è voglia di fare un appello alle persone che ci ascoltano, alle persone che ci ascoltano dai palazzi, alle persone che vivono qua. Che cosa si può fare per resistere a insomma a questo violento attacco che questo quartiere comunque conosce bene nell'ultimo mese? Anche questo quartiere l'ha vissuto proprio sulla propria pelle un certo tipo di attacco. Sì, intanto credo che sia davvero bello il fatto che durante queste ore sono passate tantissime persone del quartiere. Invece di stare in finestra hanno scelto di scendere, scambiare due risate, ma anche è stata davvero un'occasione per riabbracciare persone che conosciamo da una vita e che adesso oggi sono venute con figli che non pensavamo che avessero. Comunque, cioè, è stata davvero un pomeriggio, non lo so, mi ha ricordato tanto il passato. E sono sicuramente sembriamo gente bizzarra, un po' stranetti, stranette, gente che comunque fa pure casino, ascolta musica strana, insomma sto quartiere cioè, ci ha sopportate per tante nottate, ecco. E ancora c'è qualcuno che ha la speranza che noi spengiamo la musica in orari decenti, e ancora sta là che ci prova a contattare alle 3 di notte, vi prego smettetela. Però in realtà c'è da dire questo, che a parte quando ci si accendono gli special, siamo delle persone sempre disposte a battersi, e quello che abbiamo fatto è sicuramente non fare una campagna in difesa del centro sociale. Non ci interessa fare una campagna, chiamare la solidarietà solo nei nostri confronti, non siamo persone speciali. E noi abbiamo imparato dal quartiere come si sta per strada, ed è grazie al quartiere che esistiamo, ed è per questo che non abbiamo voluto fare incontri, tavoli, trattative. Ci hanno anche proposto incontri per darci un'alternativa, poi chissà se mantengono le promesse, ma comunque non ci importa. Noi non vogliamo lasciare questo posto al centro del quartiere, non vogliamo nessun tipo di riconoscimento, non abbiamo mai partecipato a nessuna delibera che intendeva regolarizzare gli spazi occupati o tutto quello che poi si è generato con l'associazionismo e il business anche che c'è stato rispetto alle assegnazioni di spazi che poi sono finiti nelle mani delle discoteche e locali. Ecco, a noi questa roba non ci ha mai interessato, perché abbiamo scelto di stare al fianco di ogni abusiva e ogni abusivo, e quindi da questa posizione la nostra campagna antisgombero in realtà è una campagna per lottare insieme in quartiere. Abbiamo fatto cose davvero particolari, concerti pirata, abbiamo fatto una street parade con un tir, e siamo state la prima realtà in tutta Italia che ha parlato del decreto Caivano e di quello che sarebbe successo nelle periferie, proprio a partire dalla strumentalizzazione della violenza contro le donne, in quel caso nei confronti di giovanissime ragazzine, con un carro separato femminista che ha aperto la street parade a colpi de techno, ma anche con parole molto chiare. Ecco, io penso che su questo filone qua, che non è l'ombelico del centro sociale, non è quanto ci abbiamo i capelli fatti bene o quanto se vestimo strani e quanti siamo meglio, ma piuttosto quanto ci teniamo a rovesciare l'esistente, cioè farla pagare a chi ci vuole far vivere nella miseria, e soprattutto trovare dei complici, delle complici, e fare innamorare sempre di più le persone della lotta. Questo è l'appello che c'ho da dire. Ok, siamo strani, stranette, facciamo cose bizzarre e pazze, però abbiamo un cuore immenso e speriamo che ci sgomberano, non ci sgomberano, qualsiasi cosa, qualcuno ha pensato: oh, vale la pena darsi da fare, vale la pena lottare, che carina sta gente. Tutto qua. Fa scatto, fa scatto. Leschi, leschi, vanisi, vanisi, pedra, pedra, pedra. Fatto mille scaligne a due ancora è fiato, perché l'ho appizzato tipo il fumo, non l'ho mai sprecato, ma è stata in gamba con le cifre senza un grosso risultato. Però con le barre mi rispedisco al creato, ripudio rappers da copione, se anche come attori non valgono un cazzo, disinvolti come un cammello al gran sasso. Dicono invidia quando storci il naso, ma che mi fa schifo quello che ho usato, se è cibo avariato. Il luogo è giusto, il momento è sbagliato, ma questo è il mio posto, non l'ho mai lasciato, ci scamo fossato. Mano sul petto, vogliono che sia diversa, più sento questa stronzata, c'ho la reazione inversa. Lo so che non sono fresca, ma il core non marionetta. Se non vuoi sentirti fede, ascoltati in mare Antonietta. Le scelte buone o di merda le ho fatte con la mia testa, perciò per ogni rimpianto do colpa solo a me stessa. C'è una regola che dà le scelte per me, quello che sono non è scritto da te. Su fatica ora se chiedi di essere qualcosa che non è scritto da me. C'è una regola che scrive la vita per me, quello che sono l'ho scelto da me. Su fatica ora se una lingua le incappi al collo, la testa sulle spalle. Il fiato che si fa corto quando giro coi miei Prada por la caia. Mi frego un cazzo delle vostre faide, ma fucking fighter. La testa bassa solo se allaccio le scarpe, man. Lo faccio bene, molto meglio dei tuoi amici. Se mi godo il viaggio fra perché vengo dai sacrifici. Mi ricordo, sì, quando sotto al palco erano in 15. Ora per ogni data pagata propongo un brindisi e bevo alla faccia tua di quello e di quell'altro. Non perdo tempo a scegliere il colore dello smalto. Mi stringono la mano, poi mi dicono che spacco, vuoi, tu non vali un quarto dei chilometri che ho fatto, ci ho messo tutta la grinta, tutto l'amore del mondo. Ci puoi scommettere il culo, mi prendo quello che voglio. Dopo giornate a digiuno, ma per rincorrere il sogno, ti porto il clima di giugno con solo una penna e un foglio. C'è una regola che dà le scelte per me. Quello che sono non è scritto da te. Ho fatica ora se mi chiedi di essere qualcosa che non è scritto da me. C'è una regola che scrive la vita per me. Quello che sono l'ho scelto da me. Faccio fatica ora se mi chiedi di vivere qualcosa che non è scritto da me. And the shit don't stop. All you gotta do is listen. The original, you need to stop copying. I float like a butterfly, sing like a bee. And the shit don't stop. All you gotta do is listen. The original, you need to stop copying. God, hip-hopping, I can't fuck with us.